X24, la storia. È stata la prima automobile per milioni di italiani, a tal punto che ha cambiato per sempre la nostra vita, il nostro paese, perfino gli amori di tanti italiani. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia della mitica 500, lanciata dalla Fiat il 4 luglio del 1957. Piccola, originalissima, maneggevole. Per il suo straordinario successo la macchina diventa subito un'icona del panorama economico italiano. E allora noi con Marina Milone ripercorriamo le orme di quel mito per cercare di capire come e perché è entrato così rapidamente nel cuore di milioni di italiani, diventando il simbolo della rinascita del nostro paese. 11 marzo 1955 viene presentata al pubblico la Fiat 600. Due anni più tardi, il 4 luglio 1957, è la volta della nuova 500. Sono le prime auto per tutti, nate per il mercato di massa in Italia. In meno di 10 anni trasformano le abitudini degli italiani. L'Italia si lascia alle spalle le difficoltà del dopoguerra e scopre il benessere, una strada a senso unico. Per anni l'auto è stato il privilegio esclusivo delle classi medio-alte, un sogno irraggiungibile per la maggior parte degli italiani. Ora, invece, il sogno si avvera. Sia la 500 che la 600 costano poco e finalmente è possibile conquistarsi uno spicchio di boom economico. Che meraviglia! Durante il fascismo ci fu la Topolino, ci fu la Balilla, che a diversi livelli, diciamo, piccola borghesia e media borghesia, diffusero l'automobile, ma non fu una diffusione pari a quella del modello T, ad esempio in America. Henry Ford, quando ha costruito il modello T, ha fatto un'automobile per tutti, costava $800, perché era tutti gli esemplari erano uguali e tutti gli esemplari erano di colore nero, per cui non bisognava cambiare poi gli spruzzatori, eccetera, era tutto fatto al minimo costo. Lo slogan era coniato da Henry Ford: gli americani possono scegliere automobili di qualsiasi colore purché le scelgano nere. Era Domenico De Masi. In America la prima motorizzazione di massa avviene già negli anni 20. In Francia e in Inghilterra la diffusione dell'auto è un fenomeno graduale che si afferma negli anni 30. Quanto all'Italia, bisognerà aspettare il secondo dopoguerra, ma sarà un fenomeno travolgente. Grazie alle piccole Fiat, il numero di vetture immatricolate passa dalle 800.000 unità del 1955 ai 2 milioni del 1960, per diventare solo 5 anni dopo 6 milioni. Il periodo della 500 e tutto quello che è venuto dopo è un periodo indimenticabile anche come forma di libertà personale, di libertà familiare e anche di libertà sessuale, voglio dire, ha dato maggiore libertà alla donna che prima non l'aveva. Professore di diritto costituzionale che hanno scritto delle cose molto importanti sulle conquiste dei diritti individuali, hanno dimenticato di parlare a questa immensa conquista dei diritti individuali che è stata l'automobile, la quale ha cambiato la vita degli uomini e delle donne, davvero in modo radicale, rendendo semplice, più semplice di prima la vita. Era il giornalista Vittorio Foa. Nel 1950 in Italia l'80% dei veicoli è a due ruote. Per le strade circolano 8 milioni di biciclette e 50.000 scooter. Le auto sono ancora un quarto rispetto alla Francia, un sesto rispetto all'Inghilterra e la metà rispetto alla Germania, dove la motorizzazione di massa è appannaggio della Volkswagen, la macchina del popolo voluta da Hitler. Che sogno! Vanno per la maggiore la Vespa, inventata nel 55 dall'ingegner Dascanio, e la Lambretta, che possono costare dalle 100 alle 150.000 lire, circa 8 stipendi di un operaio. L'automobile è un lusso per l'1% degli italiani. Diffusissima tra le poche auto in circolazione è la 500, detta Topolino, disegnata da Dante Giacosa, che nel 1972, nella trasmissione di Nicastro, spiega come è nato un mito. Noi dovevamo fare una vera vettura che soddisfacesse ai gusti degli italiani, alle esigenze degli italiani, e doveva costare poco. Il problema non era facile. Feci una quantità di schizzi e di proposte di soluzioni meccaniche, tutte molto semplici. E scegliemmo, con mia soddisfazione, la soluzione col motore di sbalzo, cioè davanti all'asse delle ruote anteriori. Fino allora i motori in genere erano dietro la sale. Con questa soluzione ha permesso di dare alla vettura una forma che per la Fiat era importante, era la forma della vettura 1500 con un cofano cadente che era di moda. La vettura era corta e quindi bisognava dare dello spazio all'interno. Aver messo il motore di sbalzo rispetto alla ruota anteriore ha permesso di ottenere questa abitabilità. Bentornati a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia dell'auto che ha rivoluzionato le abitudini e i costumi degli italiani. Negli anni 50 la 500 è il sogno da raggiungere, l'auto più economica sul mercato, 680.000 lire, eppure per i più è ancora inaccessibile. Ma il presidente della Fiat, Vittorio Valletta, ha deciso, è ora di produrre una nuova auto, a più basso costo. La Fiat è l'unica industria con la forza di produrre un'auto di massa in Italia e Valletta è l'unico presidente che prevede di produrre in scala a basso costo per vendere poi a basso costo attraverso un rinnovamento degli impianti grazie anche agli investimenti americani. L'azienda torinese aspira così ad essere traino dell'intera economia nazionale messa in ginocchio dalla guerra. Ma nel 1950 il sistema industriale del mondo va in crisi e così anche la Fiat. L'auto per tutti sembra all'improvviso più lontana. Un gruppo di operai e sindacalisti emarginati dalla Fiat per motivi politici decide allora di sostituirsi a ingegneri e dirigenti e realizzare quello che tutti stanno aspettando, un progetto concreto di automobile destinata ad una produzione e ad un consumo di massa in Italia. È la 350, ce ne parla Vittorio Foa. Mi ricordo che si fece un convegno sindacale a Torino per lanciare la vetturetta come simbolo di, in qualche modo, di una cosa che noi desideravamo, cioè rompere un consumo che era limitato alla borghesia e che dovevamo. Era poi una vecchia idea di Ford, vero? Del principio del secolo in America, cioè di dare a buon mercato all'automobile a quelli che le fabbricavano. Rispetto alla Topolino, la 350 deve costare la metà e consumare la metà. Deve essere l'auto per tutti che gli stessi operai possano essere in grado di acquistare. È Egidio Sulotto dell'ufficio tecnico della Fiat che nel 1952 a sfidare l'azienda. Decide di costruire in proprio la 350 per dimostrare che è possibile produrre una vettura a basso costo. Ce ne parlano il giornalista Alberto Mazzucca e Lorenzo Gianotti. C'è stato il cinquantenario della Fiat, la Fiat è uscita con la 1400 e poi è uscito con la Campagnola, che è considerata una T-Jeep da uso guerra, insomma. E dice che questo non può rappresentare i 50 anni della Fiat. E allora si mettono in testa di fare loro la macchina giusta che deve rappresentare i primi 50 anni di questa azienda. Lavorarono su parecchi mesi, ecco, fuori dell'orario di lavoro, perché non è che il sindacato avesse una propria officina per farlo. Anche il battilastra delle varie aziende della zona, Pininfarina, eccetera. Addirittura la fanno in 2 giorni, che è un record. Tant'è vero che a un certo punto dicono, se Valletta venisse a sapere che noi facciamo le macchine in 2 giorni, cosa succederebbe in fabbrica? Poi fu montata anche la macchina. E poi scritte le cose anche del tipo dell'organizzazione produttiva necessaria, perché appunto si aboliva, cosa che è molto importante, lo chassis di base su cui poi si veniva inserita, appoggiata e inchiavardata la carrozzeria. Era Ruggero Cominotti. Nasce la cosiddetta vetturetta, una riproduzione in cartongesso su scala naturale di una vettura utilitaria a quattro posti. Diciamo, era carina, era anche carina. E colpiva molto il fatto che fosse senza spigoli, era molto filante. E poi in secondo luogo era piccola, c'era un risparmio di superfici e un'idea di modernità, di curve smussate. All'epoca era tecnologicamente molto avanzato quel disegno. Avete sentito il sociologo Aris Accornero. La gente non vuole più aspettare. Nei giorni successivi all'esposizione, Egidio Sulotto e i suoi colleghi sono letteralmente sommersi dalle ordinazioni della 350. Ma Vittorio Valletta non ha intenzione di accogliere la proposta di Sulotto. Una pubblicità, diciamo, indiretta e non voluta venne dalla denuncia della Fiat che tutti i giornali ripresero. C'era anche una motivazione giusta, perché parte dei disegni erano stati rubati da qualche cassetto della Fiat che per qualche motivo erano stati venuti nascosti. Diciamolo pure, quella che poi fece la Fiat non era molto diversa, come dire, non era così lontana dai loro intenti, ma evidentemente l'effetto fu di accelerare. Biondo, non guardare dal finestrino! La 350 rimane per sempre una proposta in cartongesso. E nello stesso periodo in cui nasce la 350, negli uffici di progettazione Fiat, Vittorio Valletta ordina lo studio dell'auto che deve sostituire la Topolino. Con i tuoi occhioni guardi in su, beviti sto cielo azzurro e alto. È il progetto 100 affidato a Dante Giacosa, direttore degli uffici tecnici autoveicoli della Fiat, di cui ci parlano conoscenti e parenti. Giacosa proveniva da un mondo contadino, in cui era molto importante adattarsi alla limitatezza delle risorse, alla limitatezza degli spazi, e nonostante queste limitazioni bisognava cercare di dare dei risultati ottimi. Aveva appunto nella testa l'imprevedibilità del messaggio che poi calava nelle sue realizzazioni. A metà del 1953 il prototipo è pronto, nasce la 600, con prestazioni nettamente superiori e interpretazioni di dettaglio che all'inizio lasciano sconcertati, come l'uso della plastica in un'epoca in cui è considerata materiale povero, non tecnologicamente avanzato. Dante Giacosa spinge Carlo Salamano, capo dei collaudatori Fiat, a sottoporre alla prova la nuova vettura. Quest'auto, gli dice, andrà in mano anche a gente incapace di guidare. Per molti sarà la prima automobile della loro vita. Deve resistere a qualsiasi maltrattamento. Ce ne parla Ezio Assente, capo squadra della Fiat. Il collaudatore ufficiale delle macchine Fiat era il signor Salamano, che era un po' pazzo forse, era un esorellista, qualcosa del genere. Lui aveva il suo posto speciale dove andarli a collaudare. Su in collina, qui a Torino, c'è un posto che si chiama la Pietra di Santa Brigida. Dalla Pietra di Santa Brigida c'è un discesone spaventoso che alla metà, più o meno, ha una specie di scalino dove si ritorna in piano e poi si ricrolla giù. Ecco, lui lo prendeva a tutta velocità. Quando arrivava lì, se la macchina si piantava, che si storgeva in due, la macchina non era idonea. Se invece la macchina faceva il salto e scendeva giù fino a Moncalieri, allora era idonea. Marzo 1955, al Salone dell'Auto di Ginevra, la Fiat presenta la 600. Carrozzeria a struttura portante. Quattro marce, di cui tre sincronizzate. Quattro cilindri, cilindrata 630. Il successo tra il pubblico è immediato. La 600 è la più moderna e razionale tra le utilitarie europee e la prima macchina così piccola e maneggevole su cui possa viaggiare comodamente con il suo bagaglio una famiglia di quattro persone. Quattro posti oppure due ed ampio carico. Un molleggio eccezionale. Le quattro ruote indipendenti consentono di andare sicuri su qualunque strada. La campagna promozionale della 600 è nata con il solito lancio, come facevano tutti gli altri modelli, però poi è andata incrementandosi da sola perché il grande successo avuto dal modello ha fatto sì che le vendite si incrementassero e la Fiat ebbe dei problemi poi con la produzione, che non riusciva poi a soddisfare le tante richieste che aveva avuto e che non si aspettava di così grande successo. Era Edoardo Magnone, presidente del registro Fiat. All'uscita della 600 l'Italia conta ancora 87 abitanti per automobile. La nuova utilitaria Fiat innesca un processo grazie al quale nel 1970 un italiano su 5 ha un'automobile di proprietà. È l'inizio del boom e l'utilitaria, come spiega la giornalista Clelia D'Onofrio, accelera questo processo. La 600 rispose a questa esigenza di persone che il mondo era cambiato e vedere altra gente in macchina che camminava, che si spostava, che viaggiava, aveva capito che sarebbe stato un mezzo per migliorare il proprio lavoro e diciamo anche la propria condizione di vita, il tempo libero. La 600 diventa presto un fenomeno di costume, le richieste crescono a ritmi vertiginosi. In breve, i tempi di attesa per la consegna dell'auto raggiungono i 12 mesi. Nel 1956 la Fiat presenta la versione multipla con 6 posti per i passeggeri e la prima monovolume della storia dell'automobile. Ce ne parlano il professore di design Giovanni Brunazzi e lo scrittore Lorenzo Giannotti. È la fine del mondo dal punto di vista della concezione della macchina. La macchina dove poi uno poteva ribaltare i sedili, dormire, caricare, cioè, una cosa straordinaria. Sulla 600 multipla ci possono essere 6 persone, sono piccole anche 7-8, si può mettere sopra le valigie, quindi ci si può muovere in... Allora c'erano famiglie ancora numerose, no? 5, 6, 7, e diventa davvero la felicità fatta meccanica. E dava questo senso della libertà, dice che uno non era più obbligato a stare lì a cercare la corriera piuttosto che il treno, la cosa, ma pigliava la macchina e via. Questo senso della libertà, no? dell'autonomia. Poiché non c'erano tanti giovani con le macchine, allora la mia macchina si riempiva con 6 persone, 6 giovani, e andavamo a fare le gite. Non avendo molte possibilità, noi non andavamo in montagna, quindi con la 600 si andava la domenica sulla neve. Era di facile manutenzione, perché tante volte, non so, andava a 3 cilindri, bastava smontargli le candele, una pulita e ripartiva. Bentornati a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia dell'auto per tutti, per la piccola e media borghesia. La 600 rappresenta un salto verso il benessere, lasciarsi definitivamente alle spalle le privazioni del dopoguerra. Nel 1960 gli stabilimenti della Fiat producono 1.600.000, ne saranno vendute negli anni 4 milioni di esemplari. La motorizzazione di massa spinge il governo Scelba nel 1954 a varare la legge 77 per studiare l'adeguamento delle strade alle nuove necessità del traffico automobilistico. A parlarcene il sociologo Domenico De Masi. Nonostante l'opposizione terribile della destra, che non moliva l'autostrada del sole, ricordo Candido, anche il Borghese e tanti altri giornali proprio contrari all'autostrada del sole, come oggi contro la TAV, le frange estreme degli ecologisti, tale quale contro l'autostrada del sole e insinuando che non si sarebbe mai fatta. Per cui quando furono inaugurati i 12 chilometri Napoli-Caserta, cioè il primo tronco assoluto dell'autostrada del sole, tutto questo apparve come una rivincita, diciamo, dei boiardi di Stato, di Enrico Mattei, dell'Iri, di tutti quelli che avevano voluto queste grandi opere. Nel maggio del 57 è messa la prima pietra dell'autostrada del sole, che sarà conclusa in solo 8 anni. Dalla fine degli anni 40 gli stipendi sono saliti del 6% l'anno, mentre è scesa la disoccupazione. L'Italia riduce il divario con l'Inghilterra e la Germania è uguale ai sistemi economici come quello belga, olandese e svedese, come spiega lo storico Franco Ferrarotto. L'Italia riuscì a compiere, a realizzare una rivoluzione industriale, motoristica, meccanica, economica, che in altri paesi, in Inghilterra per esempio, aveva richiesto poco meno di 2 secoli. Allora ci voleva più occupazione, ma dove erano questi occupati? Di qui l'immigrazione, che incominciò dai paesi contadini della provincia di Torino, di Asti, di Alessandria, di Cuneo, e poi si estese al sud e quindi ci fu questa immigrazione di massa. Era lo scrittore Ruggero Cominotti. Mentre Milano, Torino, Genova si popolano, i paesi e le campagne, soprattutto al sud, vengono abbandonati. C'erano due vecchie automobili dove dormivano 3 operai. Questo davanti alla direzione Fiat. E questi davano come indirizzo 4ª macchina destra all'angolo di quella via. La 600 lascia molti ancora insoddisfatti. A dispetto delle promesse, non è ancora l'utilitaria per tutti. Per molti italiani il prezzo è ancora troppo alto, ma la Fiat ha già pronta un'utilitaria davvero per tutti. Philippe Daverio e Renzo Arbore. 2 cilindri soltanto, capaci di conquistare il mondo. Ho attualmente 6500. E una del 72. Ne possiedo 3. Ho 3500. Io ho visto una sfilata del Columbus Day, per la verità ci partecipavo, e c'erano 4 Cadillac, Chevrolet, Buick, Studebaker, eccetera, che scortavano al centro una 500 sfavillante che veniva applaudita dagli americani. Questa nuova 500 è stata proprio la novità più grande, perché è stato un atto estremamente coraggioso quello di mettere in produzione una vettura così piccola e così tanto vettura, nel senso che sebbene fosse leggera e quindi il costo del materiale impiegato fosse inferiore a quelle di altre vetture, tuttavia il costo di lavorazione praticamente era quello delle vetture più grandi, quindi i tempi di fabbricazione presentavano dei costi elevati. Avete sentito Dante Giacosa, intervistato nell'82, il 3 luglio del 57 per le vie di Torino sfilano 120 vetture. È la piccola grande auto, 4 posti, 2 metri e 85 centimetri di lunghezza, 1,32 m di larghezza, la nuova 500 è il simbolo dell'Italia del benessere, la macchina per chi fino ad allora ha avuto solo la bicicletta. Costa 490.000 lire, 100.000 lire meno della 600. Eccola! Eccola! Eccola! Eccola! Eccola! Piccola grande vettura. Era il felice slogan della Topolino nel 36. Più che mai valido oggi per la nuova 500. Si chiama 500 ma è macchina nuovissima, moderna, come concezione e come costruzione. Con un minore ingombro esterno realizza il massimo di abitabilità. I comandi sono un invito alla guida. Le 2 leve per l'avviamento, il cambio a 4 velocità e retromarcia come nella 600. Non mancano ventilazione, riscaldamento ed altre comodità apprezzate dall'automobilista. Il quadretto di controllo raggruppa tutti gli indicatori indispensabili. Spazio per il bagaglio e infine i 2 tubi di ventilazione per l'interno della vettura. Il motore presenta caratteristiche assolutamente nuove. È un 2 cilindri in linea a 4 tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo. 479 centimetri cubici di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Il successo era già stato un po' consumato dalla 600. Il problema qual era? È che nelle prove su strada la 500 comunque aveva prestazioni non troppo diverse da quelle della 600, per cui addirittura c'era il rischio di un cannibalismo interno tra la 500 e la 600 e viceversa, sia pure per motivi diversi. Fu trovato nemmeno in maniera tanto nascosta, proprio un capo espiatorio proprio nell'ingegner Giacosa. La Fiat, un caso unico nella storia, non soltanto ridusse di prezzo un modello della 500, ma addirittura restituì a coloro che l'avevano già acquistato la bellezza di 25.000 lire, che in quegli anni là si era... Nel 1957 era una bella cifra, perché la gente guadagnava 100.000 lire al mese, quando tanto. Erano lo storico Enzo Altorio ed Edoardo Magnone. Il 26 maggio del 1958, 4500 sport debuttano alla 12 ore di Hockenheim. Si piazzano tutte e quattro ai primi posti di categoria, dando inizio ad un mito. Le gare di 500 diventano popolarissime. A sfidarsi sono soprattutto la 500 Avar e la 500 Giannini. Ce ne parla Edoardo Magnone. I concessionari, quelli che ritenevano che avevano bisogno di fare esprimere alle loro vetture o alla loro clientela le doti di queste macchine, cercavano di organizzare nella zona di loro competenza delle gare che potevano essere vere e proprie gare di velocità oppure soltanto intrattenimenti come gincane, come gare in salita, come dei piccoli rally, delle cose che facevano accomunare la gente per far conoscere le vetture. Nel 59 Dante Giacosa riceve il compasso d'oro per il design della nuova 500. È il più importante premio di design e per la prima volta viene conferito ad un'automobile. Adolfo Pepe, direttore della Fondazione Vittorio. Per un periodo abbiamo espresso il meglio di noi, che non disgiungeva l'estetica, il design dalla tecnologia, dalla cura appunto nella meccanica, nel saper effettivamente piegare il materiale inerte. Il successo della 500 cresce, è l'auto delle classi meno agiate che si affacciano al benessere, è l'auto dei giovani e delle donne. La 500 portò l'automobile nei paesi dove la 600 ce l'aveva il parroco, l'avvocato, il pretore se c'era. Tutti i lavoratori che noi chiamavamo i barot, cioè quelli che venivano dalla provincia, andavano a lavorare nella grande città dalla provincia, molti di questi si comprarono poi l'auto. Quando arrivò la 500 molti se la comprarono, perché? Perché gli orari dei treni, perché le fermate, gente che stava in frazioni per le quali doveva camminare tre quarti d'ora dopo essere arrivata al paesino cui lo portava la ferrovia. Era un cambio di vita radicale. La macchina, l'automobile rappresentò questo, che uno poteva uscire di casa, trovare un mezzo e recarsi rapidamente al lavoro. Si risparmiava il tempo e lo spazio. La macchina rendeva piccolo lo spazio e rendeva piccolo il tempo. Giovanni, un operaio, aspettava anche lui una ultra utilitaria, piccola, economica, ma che fosse una vera automobile. Noi per molto tempo abbiamo discusso negli anni 60 su come si poteva ridurre l'orario di lavoro, ma gli operai, con cui ebbe molte discussioni, mi dicevano: ma ti rendi conto che quando noi abbiamo lavorato per 5 giorni, è vero, abbiamo bisogno di un giorno di riposo, che è il sabato, per poterci poi divertire la domenica. Se abbiamo un giorno solo non ci basta, abbiamo bisogno di riposare e non possiamo divertirci. Questa idea mi convinse, come convinse il sindacato, e infatti l'orario di lavoro fu poi ridotto, lasciando libero il sabato, in modo che la gente in sabato se ne andava in macchina. Tutti partono, nasce il weekend. La macchina aprì tutto un destino nuovo anche alle donne, è vero, le quali poterono muoversi nello spazio come prima non era possibile, muoversi con tanta facilità e tanta rapidità. Le insegnanti sono state le prime a comprarsi l'automobile, magari c'era una che se l'era comprata a rate, passava a prendere le altre 4 colleghe, dividevano la spesa della benzina e raggiungevano il posto di lavoro. Bentornati a Mix24, avete sentito Vittorio Foa e Clelia D'Onofrio. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia della rivoluzione a 4 ruote. La nuova 500 sarà un altro record per la Fiat. Gli esemplari prodotti fino al 75 saranno 4 milioni e la gente ama ricordarla così. Il paradiso tu vivrai se tu scopri quel che hai. Non... La libertà. libertà di andare, di muoversi, anche di socializzare. Si saliva in 4, 5, 6 o 7 o quanti erano, si andava a ballare. Eravamo in 7 in questa 500. Siamo andati a Parigi e a Londra con la 500. Nelle autostrade tedesche siamo state scortate dalla polizia perché era veramente una cosa non usuale. Quando passavano i tir in queste grandi autostrade eravamo proprio in balia di questo spostamento d'aria. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. Il nostro nido, quando eravamo fidanzati con le fidanzatine dell'epoca, era la 500. E con la 500 andavi per esempio a Napoli al Parco della Rimembranza, l'ho ricordato recentemente, e c'erano tutte le 500 in fila, tettini chiusi e naturalmente sedili ribaltabili, si andava dal meccanico, ti ribaltavano il sedile. Poi c'era il venditore di giornali a Napoli che, per crearti un'intimità, e mi ricordo che i giornali dell'epoca costavano 25 lire, ma c'era un giornale che costava di più, che era la Gazzetta dello Sport, perché il venditore ti diceva: questo è rosa e fa più ambiente, dottore. Un'estate fa, per molte notti insieme a lei, ho creduto che forse è davvero gelosa di me. In tre, uno mio fratello grosso come me e un altro suo amico piccolino, con un portapacchi infilato sul tetto a martellate per tenerlo diritto in modo da aprire il tettuccio, perché la 500 prevedeva il viaggiare a tettuccio aperto assolutamente. Feci 6.000 chilometri fino in fondo alla Cappadocia. Il paradiso tu vivrai, se tu scopri quel che hai, non ti accorgi che io amo già te. La vita è... E dove si parcheggia? Dovrebbe essere così piccola che... C'è stato nei confronti dell'automobile un atteggiamento, direi un po' ingenuo, di affetto. L'arricchivano, la spolveravano, ci parlavano. Io facevo delle interviste e mi dicevano: no, la macchina è quasi un salottino, signora. Michelle, my belle, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. L'Italia degli anni 60 compra, spende, consuma. La 500 è destinata a divenire un simbolo, l'auto della nuova società italiana. Nonostante l'avvento, a partire dagli anni 80, di nuovi modelli di utilitarie, come la Ritmo e la Panda, 500 e 600 sono riprodotte e vendute ancora oggi, rimanendo icona intramontabile del boom economico italiano. Professore Francesco Alberoni, il mito della 500 resiste, perché? Naturalmente perché la 500 è stata la macchina dei sogni di un intero popolo. Siamo un paese di nostalgici? No, ma semplicemente che è rimasta impressa, no? Quella la maggior parte della gente che ha incominciato con la 500, con il Topolino, con la 500. Le prime esperienze che ha avuto le ha fatte con la 500. Questa è un'intera generazione, o forse addirittura due generazioni sono state così, e quindi è rimasta l'idea che è la macchina degli inizi, perché era stata in realtà la Balilla, ma la Balilla era una macchina più costosa per pochi, mentre invece la 500 è stata la macchina, come poi sarà anche la 600, la macchina di massa, la macchina di tutti. La Volkswagen, voglio dire, no? In Germania era stata così e da noi è stata la 500. Poi recentemente la Fiat l'ha rivista, l'ha aggiornata, l'ha modernizzata e l'ha presentata come un oggetto di grande pregio, di grande valore. E l'operazione, in questo caso di restyling e di ricostruzione, è riuscita felicemente, una delle poche operazioni veramente riuscite. Lei si è occupato tanto di amore e ha scritto il libro Il successo mondiale, Innamoramento e amore. La 500 ha influito sul modo di amare degli italiani? Ma ha influito come tutte le macchine, nel senso che per molto tempo gli innamorati, cosa volete, si potevano incontrare, chi non avevano soldi si incontravano, si diceva in Camporella, no? Sui prati dove potevano, e la macchina è stata la prima alcova a disposizione degli, dei giovani innamorati per una generazione, è stata, e la 500 è stata la prima in assoluto, perché poi ha avuto la 600 e poi le altre, ma è stata in questo senso non perché era la 500, ma perché era la macchina di tutti, macchine che avevano tutti, le macchine che potevi avere, è stata la macchina in cui i giovani innamorati facevano l'amore. Ma oggi la macchina è ancora un luogo di incontro e di innamoramento? Molto meno di un tempo. E quali sono i luoghi oggi, se ci sono? Beh, sono le case, sono gli alberghi, sono i motel, anche perché è molto più libera e molto più tollerante la società. Un tempo il ragazzo non poteva portarsi il ragazzo a casa e poi andare a dormire con lui, adesso può farlo e quindi di conseguenza questo tipo di, la società ha dato questo permesso, i genitori danno questo permesso, quindi dal questo punto di vista la macchina ha perso in ampia misura questo significato. Grazie professore. Grazie. Mix 24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.